troviamo con Matteo Penner che ci parlerà della sua esperienza. Chi sei? Sono Matteo Penner, ho 50 anni, vivo a Besonello da sempre, diploma di congegnatore meccanico. Ho finito subito la scuola, ho cominciato presso l'OPT di Caliano per 17 anni come assemblatore di tavoli operatori. Poi nel 2006 mi sono stufato della fabbrica, ho sostituito mio papà in un'azienda agricola di 4 ettari, non di nostra proprietà, a Trento, Maso Gucciadoro, dove lavoriamo dal pino grigio al traminer, allo chardonnay per Ferrari, e Merlot e Cabernet. Tu l'altro giorno quando ho telefonato per prendere l'appuntamento ti sei definito in un certo modo. Un contadino anomalo, praticamente io sono un contadino di Besonello in trasferta perché a Besonello non ho neanche l'orto, ho sta campagna in affitto a Trento, tutta esclusivamente in un appezzamento unico. Cosa c'è di meraviglioso della terra? Allora, nella terra ci sarebbe tutto di meraviglioso. Il problema è che adesso, tra l'eccessivo sfruttamento, eccessivi paletti, burocrazia e questo e quello, comincia a diventare un po' laborioso anche lavorare la terra. E quello che era una volta era un fascino, adesso è quasi una rompitura di scatole, purtroppo. Non si trova più gente, lavori sul tuo ma ti controllano gli altri, e soprattutto la mancanza di trovare gente che ti dà una mano. Cioè la favola del contadino felice e ricco e che in campagna è tutta natura e salute, la smentisco totalmente. E com'è il tuo rapporto con la terra? Beh, il mio rapporto, io ho un bel rapporto perché mi piace tenere questo appezzamento bello, anche esteticamente. Mi piace avere un prodotto finale di valore perché il Maso si chiama appunto Goccia d'Oro e hanno dedicato anche una linea di vino traminer col nome del Maso che gestisco io, perciò ho anche la soddisfazione di essere tra virgolette il titolare del nome di questa linea di vini. Il problema è che negli ultimi anni ti fa un po' passare la voglia di lavorare la terra tutto all'insieme. O ci sono aziende grosse che diciamo non sono più l'agricoltore del paese, ma sono ditte proprio con 15, 20, 30 dipendenti. Le nuove partite IVA agricole, che c'è sta moda che si legge sui giornali, boom di partite IVA agricole, è vera e falsa, perché un giovane che vuole iniziare adesso da zero è un disastro per i costi insostenibili delle attrezzature. Cioè, per partire da zero, avere un minimo di attrezzatura adesso ci vuole minimo 100.000 euro. E soprattutto, se hai alle spalle un genitore giovane o qualcuno che ti dà una mano, l'azienda agricola giovane riesce ad andare avanti, altrimenti non si va più da nessuna parte. Ho fatto la mia scelta, sono contento di averla fatta. Adesso come adesso, ci sto pensando a fine contratto di abbandonare la campagna. E il rapporto con la campagna è buono tutto finora, anche adesso, però cominciano a esserci veramente i problemi di non trovare nessuno che ti dà una mano. La terra non fa vacanza, i parenti sono diventati tutti anziani. Io ho da vendemmiare dai 500 ai 600 quintali di uva nell'arco di 30-40 giorni di media. Chi trovi da assumere che gli dice: ascolta, a me servono 6-7 giorni di lavoro nell'arco di 30-40 giorni? Dice: no, guarda, ciao, grazie. E purtroppo io l'anno scorso, causa la siccità che non pioveva e così, non ho fatto un giorno di vacanza assieme alla famiglia. Cosa si è perso, cosa si è perduto e cosa si è guadagnato nel rapporto con la terra? Allora, sicuramente una volta la campagna era un qualcosa in più. Negli anni 70, 80, 90 la maggior parte dei proprietari di azienda sono gente che è andata in pensione o mancava poco andare in pensione e hanno quell'ettaro e mezzo. Adesso praticamente la campagna non è più, come dicevo prima, la storia romantica, ma è praticamente un'azienda vera e propria dove bisogna farla rendere, bisogna guardare i costi e far tornare i conti. L'autosopravvivenza, diciamo, bello, perché chi non vorrebbe avere o ritornare allo scambio proprio? Bellissimo, però purtroppo quei tempi lì sono andati e non ritorneranno neanche mai più. Io, per dire, ho dovuto adattarmi a una cosa del genere, che però di romantico o di antico ha poco. Io durante l'anno lavoro per una ditta, un'azienda agricola grossa, e praticamente le mie ore vengono trasformate in scambio di manodopera, perché altrimenti non troverei gente che mi dà una mano. Hai un ricordo tu dove si desta la meraviglia per quello che stai osservando? La vendemmia era una festa. Ricordo che da bambino andavo con i miei nonni che avevano delle campagne qua sopra. C'era il vicino di casa che gli imprestava il carro per dove portare l'uva, c'era l'altro vicino di casa che era l'unico su 10 famiglie che aveva il trattore e ti faceva il viaggio nella cantina di Cagliano, che anche quella non c'è più. Mi ricordo le file di ore e ore per consegnare l'uva, mi ricordo i frati, quando avevi uva in eccesso, davi 2 quintali per i frati. Adesso queste cose qua purtroppo non esistono più. Ma sì, forse qualche scambio fra vicini di campagna se non sono in lotta. Però anche le cantine adesso i quintali giusti, la quantità in eccesso viene penalizzata e non esiste regalare, cioè è andata persa sta bella storia di una volta. Adesso la vendemmia è una guerra, non è una festa, è una guerra, perché sono tutti lì disperati e tu hai gente e nomi no e non trova nessuno e come fente. Adesso arrivi al punto che dici, cacchio, finalmente ho portato tutta l'uva in campagna, boom, adesso tiro il fià. Visioni di futuro, ricette, consigli? Anche per la sostenibilità, per tracciare una direzione agli altri, quelli che vengono dopo. Allora, purtroppo secondo me la visione del futuro per le aziende agricole non è felice. A mio figlio sinceramente non consiglierei di seguirmi, perché vedendo com'è adesso la situazione rimarranno gli appezzamenti piccoli dell'azienda medio piccola, più piccola che media, e dopo andrà tutto in mano a grandi aziende. Non parlo dei multinazionali, però di aziende grosse dove hanno la possibilità di avere disponibilità di gente, disponibilità di mezzi, e dove, capito, se uno ad andare in ferie c'è l'altro o ce ne sono altri 10 che sostituiscono.